Dopo un po', il terzo figlio arrivò e stette davanti a suo padre, e Wang Lung lo guardò per vedere com'era, e vide un ragazzo alto e snello che non assomigliava né al padre né alla madre, se non per la serietà e il silenzio materni, ma era più bello di quanto non fosse stata lei, e lo era anche più degli altri figli di Wang Lung, fatta eccezione per la ragazza che era andata nella famiglia del marito e non apparteneva più alla casa dei Wang. Ma sulla fronte del ragazzo, quasi una macchia nella sua bellezza, c'erano due sopracciglia nere, troppo pesanti e nere per il suo viso giovane e pallido, e quando si accigliava, e succedeva spesso, le sopracciglia nere si incontravano pesanti e dritte sulla fronte. E Wang Lung guardò fisso il figlio e, dopo averlo osservato bene, disse: «Tuo fratello maggiore dice che vorresti imparare a leggere». Il ragazzo, senza quasi muovere le labbra, disse: «Sì». Wang Lung scosse la cenere dalla pipa e con il pollice vi inserì lentamente del tabacco fresco. «E suppongo che questo significa che non vuoi lavorare nella campagna e che io non avrò un figlio sulle mie terre, proprio io che ho figli e in abbondanza». Disse questo con amarezza, ma il ragazzo non ribatté. Se ne stava dritto e silenzioso nel suo abito bianco estivo di lino. E alla fine Wang Lung si arrabbiò per il suo silenzio e gli gridò contro: «Perché non parli? È vero che non vuoi restare sulla terra?» E di nuovo il ragazzo rispose con una sola parola: «Sì». E guardandolo, Wang Lung si disse che alla sua età i tre figli erano troppo, erano un peso e una preoccupazione, e non sapeva cosa fare con loro. Poi gridò ancora, sentendosi trattato male dai suoi figli: «Cosa me ne importa di quel che fai? Vattene via da me!» Allora il ragazzo se ne andò immediatamente e Wang Lung rimase solo, dicendosi che le due ragazze dopo tutto erano meglio dei maschi, perché la prima, la sua scioccherella, non voleva altro che un po' di cibo e il suo pezzo di tela con cui giocare, e l'altra era sposata e fuori di casa. E la penombra scese sulla corte e lo rinchiuse al suo interno da solo. Eppure, come faceva sempre quando gli passava la rabbia, lasciò liberi i figli di fare come volevano, chiamò il maggiore e disse: «Prendi un maestro per il terzo se lo vuole e lascialo fare come vuole, però non voglio essere disturbato». E chiamò il secondo figlio e disse: «Siccome non avrò un figlio che lavora alla campagna, dovrai occuparti tu degli affitti e dell'argento che arriva dalla campagna ogni raccolto. Puoi pesare e misurare. Sarai il mio sovrintendente». Il secondo figlio fu molto soddisfatto perché ciò significava che finalmente i soldi sarebbero passati attraverso le sue mani e avrebbe saputo cosa entrava e si sarebbe potuto lamentare con suo padre se in casa si fosse speso più del necessario. Questo suo secondo figlio pareva a Wang Lung più strano di tutti gli altri, poiché persino il giorno del matrimonio, che finalmente era arrivato, fece attenzione ai soldi spesi per le carni e i vini. E divise accuratamente i tavoli, riservando le carni migliori agli amici di città che conoscevano il costo dei cibi, e per gli affittuari e la gente di campagna che bisognava invitare, fece mettere i tavoli nelle corti e diede loro solo carni e vini di seconda scelta, perché mangiavano quotidianamente cibi poco raffinati e per loro un po' meglio del solito era già molto buono. E il secondo figlio osservò i soldi e i regali che arrivarono, e agli schiavi e ai servi diede il minimo che si poteva dare, tanto che Cucù sogghignò quando le mise in mano due miseri pezzi d'argento e disse, in modo che sentissero in molti: «Oh, una famiglia veramente grande non lesina tanto il suo argento, e si può vedere che questa famiglia non appartiene di diritto a queste corti». Il figlio maggiore la sentì e si vergognò, e temendo la sua lingua, le diede in segreto dell'altro argento, arrabbiato con il secondo fratello. Ci furono quindi discussioni fra i due, persino il giorno del matrimonio, quando gli ospiti erano seduti intorno ai tavoli e la portantina della sposa stava entrando nelle corti. E dei suoi amici, il fratello maggiore invitò alla festa solo alcuni dei meno rispettati, perché si vergognava della parsimonia del fratello e perché la sposa era solo una ragazza di campagna. Se ne stette in disparte, sprezzante, e disse: «Mio fratello ha scelto una pentola di coccio, quando, grazie alla posizione di mio padre, avrebbe potuto avere una coppa di giada». E fu sprezzante e fece un cenno rigido col capo quando la coppia arrivò e si inchinò davanti a lui e a sua moglie, in qualità di fratello e sorella maggiore. E la moglie del figlio maggiore fu inappuntabile e altezzosa e si inchinò solo quel tanto che poteva considerarsi conveniente nella sua posizione. Ora, fra tutti quelli che vivevano nelle corti, sembrava che nessuno vi stesse completamente in pace e a suo agio, nessuno tranne il nipotino di Wang Lung. Persino Wang Lung, quando si svegliava, protetto dalle ombre del grande letto intagliato in cui dormiva, nella sua stanza accanto alla corte in cui viveva Loto, persino lui a volte si svegliava sognando di essere tornato nella sua semplice buia casa dalle pareti di terra. Là un uomo poteva versare a terra il suo tè ormai freddo dove gli pareva, senza schizzare nessun pezzo di legno intagliato, e gli bastava muovere un passo per ritrovarsi nei suoi campi. Quanto ai figli di Wang Lung, non c'era mai pace perché il maggiore temeva che non si spendesse abbastanza e che fossero così sminuiti agli occhi della gente, o che i contadini entrassero varcando il grande portone quando c'era qualche cittadino in visita, tanto che se ne dovessero vergognare. E il secondo figlio temeva gli sprechi e che si sperperassero i soldi, e il minore cercava di recuperare gli anni persi quando era il figlio di un contadino. C'era però uno che trotterellava su e giù, soddisfatto della sua vita, ed era il figlio del suo figlio maggiore. Il piccolo non pensava mai a un luogo diverso dalla sua grande casa, e lì c'era sua madre, e lì c'erano suo padre, il nonno e tutti quelli che vivevano solo per servire lui. E Wang Lung traeva da lui la pace e non era mai sazio di guardarlo e di ridere e di tirarlo su quando cadeva. Ricordava anche quel che faceva suo padre e gli piaceva prendere una fascia e metterla attorno alla vita del bambino e camminare, impedendogli così di cadere. E così andavano da una corte all'altra e il bambino indicava i pesci che guizzavano nelle vasche e parlottava. Strappava la testa di un fiore e stava bene in qualunque posto. E solo così Wang Lung trovava pace. Ma non c'era solo lui. La moglie del figlio maggiore era fedele e concepiva e partoriva regolarmente e fedelmente, e ogni bambino alla nascita aveva la sua schiava. Wang Lung vedeva perciò ogni anno sempre più bambini nelle corti e più schiave, tanto che se qualcuno gli diceva: «Ci sarà un'altra bocca nella corte del tuo figlio maggiore?» lui rideva soltanto e diceva: «Bene, di riso ce n'è abbastanza per tutti, perché abbiamo la buona campagna». E fu contento quando anche la moglie del secondo figlio, arrivato il suo momento, partorì e mise al mondo prima una bambina, come era giusto e conveniente per rispetto della nuora. Ma nell'arco di 5 anni Wang Lung ebbe dunque 4 nipoti maschi e 3 femmine, e le corti erano piene delle loro risate e dei loro pianti. Nella vita di un uomo 5 anni non sono niente, a meno che non sia molto giovane o molto vecchio. E se quegli anni diedero a Wang Lung i bambini, gli tolsero, d'altro canto, il vecchio sognatore, suo zio, a cui non pensava quasi più, tranne che per assicurarsi che lui e la vecchia moglie avessero abiti e cibo e tutto l'oppio che desideravano. L'inverno del 5° anno fu molto freddo, più freddo che nei 30 anni precedenti, tanto che per la prima volta, da quando Wang Lung aveva memoria, il fossato intorno alle mura della città gelò e la gente poteva camminarci sopra. Un continuo vento ghiacciato soffiava anche da nord-est e non c'era niente, nessun indumento di pelle, di capra o pelliccia che potesse tenere caldo. In ogni stanza della grande casa ardevano bracieri di carbonella, eppure continuava a fare abbastanza freddo da vedere il respiro di un uomo quando veniva soffiato fuori. Ora lo zio di Wang Lung e sua moglie da molto tempo si erano fumati via la carne dalle ossa e passavano le giornate sdraiati a letto come 2 bastoni secchi ed erano privi di calore interno. E Wang Lung sentì che lo zio non riusciva nemmeno più a stare seduto sul letto e sputava sangue a ogni movimento. Così uscì per andare a trovarlo e vide che non gli restavano più molte ore. Allora Wang Lung comprò 2 bare di legno, abbastanza buone ma non troppo, e le fece portare nella stanza dove giaceva lo zio in modo che il vecchio potesse vederle e morire tranquillo, sapendo che c'era un posto per le sue ossa. E lo zio disse con la voce che era un sussurro tremante: «Bene, tu sei un figlio per me, più di quell'altro mio girovago». E la vecchia donna, che era ancora un po' più forte dell'uomo, disse: «Se muoio prima che mio figlio torni a casa, promettimi che gli troverai una brava ragazza, così che potrà avere per noi dei figli». E Wang Lung promise. A che ora suo zio fosse morto Wang Lung non lo seppe mai. Una sera, quando la serva entrò per portare una ciotola di minestra, era morto. E Wang Lung lo seppellì in una giornata di freddo tagliente, in cui il vento soffiava nuvole di neve sulla campagna, e mise la bara dentro il muro della famiglia, accanto a suo padre, solo un po' più bassa, ma sopra il posto dove sarebbe andata la sua. Poi Huanglong ordinò il lutto per l'intera famiglia e ne indossarono il segno per un anno, non perché qualcuno davvero piangesse la morte del vecchio, non era mai stato altro che un peso per loro, ma perché è giusto fare così in una grande famiglia quando muore un parente. Poi Huanglong trasferì la moglie dello zio in città, dove non sarebbe stata sola, e le diede una stanza in fondo a una corte lontana e disse a Cucù di sorvegliare la schiava che l'avrebbe accudita. E la vecchia succhiava la sua pipa di oppio e giaceva sul suo letto con estrema soddisfazione, dormendo un giorno dopo l'altro, e accanto a lei c'era la sua bara, così che vedendola potesse averne consolazione. E Wang Lung si meravigliò al pensiero di averla temuta un tempo, quando era una grassa e sciatta donna di campagna, pigra e chiassosa, la stessa donna che ora giaceva là, avvizzita e gialla e silenziosa. Avvizzita e silenziosa come era stata l'anziana padrona dell'ormai tramontata casa dei Fang. 31. Per tutta la sua vita Wang Lung aveva sentito parlare di guerre qua e là, ma non ne aveva mai vista una arrivare se non quell'anno in cui aveva passato l'inverno nella città del sud quando era giovane. Non gli era mai arrivata più vicino di così. Anche se aveva sentito spesso gli uomini dire fin da bambino: quest'anno c'è una guerra a ovest, oppure c'è guerra a est o a nord-est. E per lui la guerra era una cosa come la terra e il cielo e l'acqua, e perché ci fosse non lo sapeva nessuno, solo il fatto che c'era. Di tanto in tanto sentiva uomini dire: vogliamo andare in guerra. Lo dicevano quando facevano la fame e preferivano essere soldati che mendicanti, e a volte lo dicevano quando in casa erano irrequieti, come era stato il figlio dello zio. Ma comunque fosse, la guerra era sempre in qualche posto lontano. Poi, all'improvviso, come un vento si leva, senza un motivo in cielo, quella cosa si avvicinò. Huanglong ne sentì parlare dal secondo figlio che una volta che venne a casa dal mercato per il suo riso di mezzogiorno disse al padre: il prezzo del grano è salito all'improvviso perché ci sarà guerra a sud di noi e ogni giorno è più vicina e dobbiamo conservare le nostre scorte perché più avanti il prezzo aumenterà ancora a mano che gli eserciti si avvicineranno e potremo venderlo a un prezzo migliore. Huanglong ascoltò questo mentre mangiava e disse: bene, è davvero un fatto strano e sarò contento di vedere una guerra com'è, perché ne ho sentito parlare tutta la vita e non ne ho mai vista una. Si ricordò poi che una volta aveva avuto paura di essere arruolato contro la sua volontà, ma adesso era troppo vecchio e inoltre era ricco e i ricchi non devono avere paura di niente. Non prestava quindi grande attenzione alla faccenda e non ne provava più che una leggera curiosità e disse al secondo figlio: fai come ritieni meglio con il grano e nelle tue mani. E nei giorni seguenti giocò con i nipoti quando era dell'umore giusto e dormì e mangiò e fumò la sua pipa e andò a trovare qualche volta la sua povera scioccherella che se ne stava seduta in un angolo lontano della sua corte. Poi, riversandosi da nord-ovest come una moltitudine di locuste, un giorno all'inizio dell'estate arrivò un'orda di uomini. Un bel mattino di primavera, il nipotino di Huanglong stava al portone con un servo a vedere quel che succedeva, quando vide lunghe file di uomini dalle giacche grigie. Allora corse dal nonno e gridò: guarda, guarda cosa sta arrivando, grande vecchio! Allora Huanglong tornò al portone con lui per fargli piacere, e gli uomini riempivano la strada, la città, e Huanglong ebbe la sensazione che l'aria e la luce del sole fossero state improvvisamente bloccate a causa della quantità di uomini grigi che camminavano con passo pesante e cadenzato attraverso la città. Allora Huanglong li guardò da vicino e vide che ogni uomo aveva un attrezzo di qualche genere con un coltello che spuntava fuori all'estremità e la faccia di ogni uomo era selvaggia e crudele e rozza. Per quanto alcuni fossero solo ragazzi, erano così. Vedendo le loro facce, Huanglong tirò a sé di colpo il bambino e mormorò: andiamo e serriamo il portone, questi non sembrano proprio bravi uomini, cuoricino mio. Ma all'improvviso, prima che riuscisse a girarsi, uno degli uomini lo vide e gridò verso di lui: eccolo, il nipote di mio padre. Huanglong alzò gli occhi e vide il figlio dello zio, ed era vestito come gli altri, grigio e polveroso. Ma la sua faccia era più selvaggia e crudele di quella di chiunque altro e scoppiò in una risata aspra e gridò ai suoi compari: possiamo fermarci qui, compagni, quest'uomo è ricco ed è mio parente. Prima che Wang Lung, terrorizzato, potesse muoversi, l'orda si riversava già attraverso il suo portone, passandogli davanti, e lui si ritrovò impotente nel mezzo. Entrarono nelle sue corti come acqua maligna e sporca, riempiendo ogni angolo e fessure, si distesero sui pavimenti e intinsero le mani nelle vasche e bevvero, buttarono i loro coltelli sui tavoli intagliati e sputarono dove gli pareva, lanciandosi grida. Allora Wang Lung, disperato per quel che era successo, tornò indietro di corsa col bambino a cercare il figlio maggiore. Entrò nelle corti del figlio e lo trovò che leggeva un libro. Nel vedere il padre, si alzò e quando ebbe sentito quel che Wang Lung gli raccontò, boccheggiando, si mise a gemere e uscì. Ma quando vide suo cugino, non seppe se insultarlo o essere gentile con lui. Guardò e disse con un gemito al padre che stava dietro di lui: «Ognuno ha un coltello». Allora fu gentile e disse: «Bene, cugino mio, benvenuto di nuovo nella tua casa». E il cugino aprì la bocca in un sogghigno: «Ho portato alcuni ospiti». «Poiché vengono con te, sono i benvenuti», disse il figlio maggiore di Wang Lung, «e vi prepareremo un pasto così che potranno mangiare prima di proseguire per la loro strada». Allora il cugino disse, sempre sogghignando: «Fallo, ma non c'è premura perché ci riposeremo per qualche giorno o per una luna o un anno o due. Resteremo infatti acquartierati in città fin quando la guerra non ci chiamerà». Quando Wang Lung e suo figlio sentirono questo, riuscirono a stento a nascondere il loro sgomento, eppure doveva essere nascosto a causa dei coltelli che guizzavano dappertutto nelle corti. Quindi sfoderarono i poveri sorrisi che furono in grado di produrre e dissero: «Molto lieti, molto lieti». E il figlio maggiore finse di dover andare a preparare qualcosa e prese la mano del padre ed entrambi corsero nella corte interna e il figlio maggiore sbarrò la porta, dopodiché i due, padre e figlio, si guardarono costernati e nessuno dei due sapeva cosa fare. Poi il secondo figlio arrivò di corsa e bussò alla porta e quando lo fecero entrare rotolò quasi all'interno senza riuscire a controllarsi per la fretta e sempre ansimante. «Ci sono soldati dappertutto, in ogni casa, persino nelle case dei poveri, e sono venuto a dirvi che non dovete protestare perché oggi un impiegato nel mio negozio, e lo conoscevo bene, stava accanto a me al banco ogni giorno, quando ha sentito ed è andato a casa sua, c'erano soldati perfino nella stanza dove sua moglie giaceva malata e ha protestato e l'hanno infilzato come un pezzo di lardo, così liscio liscio, e il coltello è uscito pulito sull'altro lato. Qualsiasi cosa vogliano, dobbiamo darla e preghiamo solo che la guerra si sposti presto altrove». Allora i tre si guardarono con grande serietà e pensarono alle loro donne e a quegli uomini affamati e vogliosi, e il figlio maggiore pensò a sua moglie così bella e per bene e disse: «Dobbiamo mettere insieme le donne nella corte più interna e sorvegliarle giorno e notte, tenere le porte sbarrate e la porta della pace sul retro pronta per essere disserrata e aperta». E così fecero. Presero le donne e i bambini e li misero tutti nella corte interna dove Loto aveva vissuto da sola con Cucù e le sue serve. E là vissero, scomodi e accalcati. Il figlio maggiore e Wang Lung sorvegliavano la porta giorno e notte e il secondo figlio arrivava quando poteva, sia di giorno sia di notte, sorvegliavano con attenzione. Ma c'era quello, il cugino, e siccome era un parente, nessuno poteva legittimamente tenerlo fuori, e bussava alla porta ed entrava e si aggirava a piacimento con il coltello sguainato nella mano, brillante e luccicante. Il figlio maggiore lo seguiva tutt'intorno, estremamente contrariato in viso, eppure non osava dire niente a causa del coltello aperto e luccicante. E il cugino guardava questo e quello e valutava ogni donna. Guardò la moglie del figlio maggiore e, scoppiando nella sua risata roca, disse: «Mai proprio un bel bocconcino prelibato, cugino mio, una dama di città coi piedi piccoli come boccioli di loto». E alla moglie del secondo figlio disse: «Guarda qui che buon rapanello rosso e robusto dalla campagna, un pezzo di vigorosa carne rossa». Disse così perché la donna era grassa e rubiconda, dall'ossatura massiccia eppure non sgraziata. E mentre la moglie del maggiore si ritrasse quando lui la guardò, nascondendo il viso dietro la manica, quest'altra scoppiò a ridere, allegra e robusta com'era, e rispose impertinente: «Beh, a certi uomini piace il sapore del rafano o un morso di carne rossa». E il cugino rispose prontamente: «A me piacciono», e fece per prendere la sua mano. Durante quello scambio fra uomo e donna, il figlio maggiore soffrì di un penosissimo imbarazzo perché i due non avrebbero nemmeno dovuto parlarsi e, pieno di vergogna per via del cugino e della cognata, gettò uno sguardo alla propria moglie, la quale era stata cresciuta in un ambiente più nobile del suo, e il cugino, vedendo il suo disagio di fronte alla moglie, disse con malizia: «Beh, preferirei mangiare carne rossa ogni giorno piuttosto che una fettina di pesce freddo e insipido come quella». A quel punto la moglie del figlio maggiore si erse in tutta la sua dignità e si ritirò in una stanza interna. Allora il cugino rise roco e disse a Loto, che sedeva fumando la sua pipa d'acqua: «Queste donne di città sono troppo schizzinose, non è vero, anziana padrona?» Poi la soppesò bene e disse: «Beh, è davvero un'anziana padrona, e se non sapessi che mio cugino Wang Lung è ricco, lo capirei guardandoti. Sei diventata una tale montagna di carne, hai mangiato certo bene in abbondanza. Solo le mogli dei ricchi possono avere questo aspetto». Loto fu contentissima di sentirsi chiamare anziana padrona, perché è un titolo che solo le signore delle grandi famiglie possono avere, e una risata profonda e gorgogliante si levò dalla sua grassa gola. Lei allora soffiò la cenere dalla pipa, che porse poi a una schiava perché la riempisse ancora, e rivolta a Cucù disse: «Beh, questo tipaccio ha il senso dell'umorismo». E nel dirlo lanciò al cugino un'occhiata maliziosa, benché i suoi sguardi, ora che gli occhi non erano più grandi e a forma di albicocca sulle sue ampie guance, erano meno civettuoli di un tempo, tanto che il cugino, in risposta al suo sguardo, scoppiò in una sonora risata ed esclamò: «Beh, è ancora una vecchia puttana». E rise ancora. Per tutto quel tempo il figlio maggiore rimase lì arrabbiato e silenzioso. Poi, quando il cugino ebbe visto tutto, andò a trovare sua madre, e Wang Lung lo accompagnò per mostrargli dov'era. Stava distesa sul letto, dormiva, tanto che suo figlio faticò a svegliarla, ma ci riuscì battendo il calcio del fucile sulle piastrelle del pavimento, accanto alla testata del letto. Allora lei si svegliò come da un sogno e lui disse con impazienza: «Ma come? Qui c'è tuo figlio e tu continui a dormire?» Allora lei si sollevò un po' sul letto e lo guardò nuovamente e disse stupita: «Mio figlio? È mio figlio?» E lo guardò a lungo e alla fine, come se non sapesse cos'altro fare, gli offrì la sua pipa di oppio. Quasi non riuscisse a pensare a nessuna cosa che fosse meglio di quella e disse alla schiava che la accudiva: «Preparane un po' per lui». E lui la guardò e disse: «No, non lo voglio». Wang Lung era accanto al letto e, all'improvviso, temendo che l'uomo si rivoltasse contro di lui e dicesse: «Cosa hai fatto a mia madre, che è così avvizzita e gialla e tutta la sua buona carne se n'è andata?» Allora Wang Lung si affrettò a dire: «Sarei felice se si accontentasse di meno, perché ogni giorno è una manciata di argento che se ne va per il suo oppio. Ma alla sua età non osiamo farla arrabbiare, e lo vuole tutto». E sospirò nel parlare, guardando di nascosto il figlio dello zio. Ma l'uomo non disse niente, limitandosi a osservare cosa ne era ormai di sua madre, e vedendola ricadere indietro e immergersi nuovamente nel suo sonno, si alzò e si allontanò, battendo a terra il calcio del fucile, come se fosse stato un bastone.